Noi vogliamo una isola libera e fraterna, dove uguaglianza sia una festa e il mare nostro sarà il mare della libertà. Questa isola è Lampedusa, luce, pace, solidarietà, il mare nostro, mare dell'Islam, degli ebrei, della cristianità, mare della fraternità.